English Bit di Giulia Crivelli. Likely. Cancer survivors more likely to be prescribed opioids even years later. Il network televisivo ABC si è inserito nell'acceso dibattito in corso negli Stati Uniti sull'uso di medicinali oppioidi, una categoria, gli oppioidi, a cui appartiene l'eroina. Chi guarisce dal cancro ha maggiori possibilità di chi non ha mai avuto un tumore di dover prendere oppioidi anche a distanza di anni dalla remissione. Questo è il titolo del servizio. La parola che ci interessa è likely, un avverbio che viene da like, termine che nell'era dei social network è diventato tra i più usati della lingua inglese in italiano. Likely però ci sembra molto più interessante, anche perché è in realtà una specie di ibrido avverbio-aggettivo. Ne esiste infatti la forma maggiorativa, more likely, e superlativa, most likely. In italiano, per tradurlo, dobbiamo quasi sempre usare più di una o due parole, come per il titolo del servizio della ABC. Ma vediamo altri esempi. Tickets for that concert are likely to be expensive. È probabile che per quel concerto i biglietti siano cari. It's more likely than the thieves don't understand how much that ring is worth. È più che probabile che i ladri non capiscano quanto vale quell'anello. Ma potremmo anche dire, scommetterei che i ladri non capiranno quanto vale quell'anello. They might refuse to let us buy it, but it's hardly likely. Potrebbero rifiutarsi di darci il permesso di comprarlo, ma è scarsamente probabile. She seems the most likely candidate for that job. Sembra la candidata più probabile, nel senso di più adatta, per quel lavoro. He said that he would likely run for president. Ha dichiarato che probabilmente si candiderà alla presidenza. Da like e likely viene anche likelihood, che non ha niente a che vedere con il gradimento e il mi piace dei social network. The likelihood is that the unemployment rate will continue to fall. È probabile che il tasso di disoccupazione continui a scendere. Likeness, invece, vuol dire somiglianza. Joanna bears a strong likeness to her father. Joanna assomiglia molto a suo padre. Do you notice any family likeness between them? Noti qualche somiglianza familiare tra loro? Like-minded è un aggettivo e significa avere le stesse idee, mentre likewise è un avverbio. He voted for the change and expected his colleagues to do likewise. Votò per il cambiamento e si aspettava che i suoi colleghi facessero lo stesso.